canzoni rubate a questo progetto di ricerca con cui appunto oggi vi farò ascoltare qualche canzone di grande amore nei confronti della musica. Stiamo parlando di Federico Poggio Pollini e quindi questo suo nuovo disco Canzoni Rubate è un omaggio alla musica, composto da 17 brani, 9 cover, un inedito e 7 brani strumentali originali. La gran parte dei brani scelti sono risalenti soprattutto al decennio tra fine anni 70 e fine anni 80 e con un occhio di riguardo verso la scena progressive. Selezionati dopo un lungo studio, puntano alla ricerca degli arrangiamenti e sulla vicinanza dei testi con i giorni nostri. Una selezione legata anche ai ricordi e anche qui appunto la scelta di Varietà di Gianni Morandi, brano scritto da Mogol e Mario Lavezzi. O è appunto sul senso di appartenenza con una città come Bologna, rimettendo mano a Il Chiodo degli Schiantos, o Fiamme in Città, un brano del 1986 della band bolognese Tribal Noise, di cui Federico suonava al basso. Il legame a Bologna, anche insomma dato dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, Bologna e piove, ma appunto anche insomma che diventa attuale con il featuring con Cimini, che tra l'altro è stato nostro ospite sui 103.1 il mese scorso, con il brano Monna Lisa di Ivan Graziani. La realizzazione di Canzoni Rubate ha l'intento di portare avanti una precisa idea di cultura e di filosofia del fare e scrivere musica, non immediata tanto ieri come oggi, ma sicuramente di indubbio spessore. Poi Delai, la traccia inedita e le tracce strumentali, tutti brani chitarristici composti durante il lockdown, suoni che galleggiano e a volte rimbalzano come un eco dal sapore malinconico e il blues usato con il bottleneck. Insomma, un artista insomma dai più conosciuti, un nuovo album che racchiude 17 brani, cover inediti e brani strumentali originali. E ora ci ascoltiamo Trappole featuring Finardi. La trovi sempre all'angolo del corridoio del palazzo. Ha viaggiato gratis, ormai è esperta in questo sport. Che cosa aspetta? Non lo so. Raccati intorno a 100 lire se ne va. È una gatta magra tra le gambe della città. In trappola, in trappola si sa. E a tutti i costi resterà. Oramai in trappola, in trappola si sa. Qualcuno l'ha puntata già. Dovrà vedersela con lui prima o poi. Il rettile ha una stanza in qualche buco di periferia. Sai che apre il bar della ferrovia. Fuori di testa spaccata a metà, con un martello nel cervello la città. È meglio un posto in cui non pioverà, poi domani presto si vedrà. Intrappola, intrappola verso. Si prende subito quel che può e raccogliersi da sé quel che c'è. Intrappola, intrappola si sta. E sotto scala della sempre all'angolo in ogni posto dove passerai. Se le vene vuote te la porti dove vuoi. Come un automa dai fili scoperti, può scoppiarti tra le dita prima o poi. L'hanno toccata in tanti amori, denti in bocca ormai. È in trappola di già. E i ripostini della città. E poi difficili darà. Si vedrà. Intrappola si sa, i tempi giusti li ha persi già, e a tutti i costi resterà, oramai. Intrappola, intrappola di già. abbiamo finalmente in collegamento telefonico con noi per raccontarci di questo progetto di ricerca, questo omaggio alla musica, appunto con canzoni rubate, Federico Poggiopollini. Benvenuto su 103.1, ciao! Ciao, ciao, ciao! Dove eri poco Grazie fa? Sono un po' in giro. Sai dove ero? È una zona che per me è molto importante perché fa parte un po' della storia. Raccontaci un po'. Mi senti? Sì, sì. Benissimo. Perfetto. Allora, sono in zona Scandellara. Quindi è importante perché la Scandellara è un locale, era un luogo di incontro per concerti, per sale prove, per artisti. Sono qua vicino, ho consegnato alla mio ufficio stampa, lo sai che bisogna parlare di tutto quello che succede al giorno d'oggi, sì, sì, sì. Al mio ufficio stampa i CD fisici, appunto, di canzoni rubate. E che emozione è vedere il proprio disco? Perché vabbè, ormai adesso c'è Spotify, è tutto in streaming, si fanno insomma concerti in streaming, però quando poi si vede il proprio disco fisico è una bella emozione. Eh sì, per me ancora, sono ancora uno di quelli che quando mi è arrivata a casa e ho scartato la prima copia e ho visto che tutto era come mi aspettavo, perché alla fine è ancora... fino alla fine non sai mai se tutti i dettagli, la colorazione è ancora quella che tu hai in testa. Certo. È venuto molto bene, sono molto felice, l'ho ascoltato dall'inizio alla fine appena arrivato, però mi sono promesso di non ascoltarlo più, perché veramente questo album per me è stato molto impegnativo, perché non essendo cose mie ho cercato sempre di più di ottimizzarle. E ora basta, perché l'ultima volta che ho ascoltato, appunto, è stato appena arrivato, me lo sono messo su, l'ho ascoltato dalla prima all'ultima nota, però basta, ora spero di ascoltarlo in altri luoghi, in radio, ecco, non sarò più io a metterlo. Vabbè, ora è nostro, infatti noi sui nostri 103.1 abbiamo già trasmesso molti brani e tra l'altro appunto è un disco molto particolare, infatti da qua il nome Canzoni Rubate. Esatto, è un disco... una sorta di ricerca, tu l'hai detto prima, è vero, è iniziato un po' per gioco, nel senso che volevo fare, mi è sempre piaciuto anche durante i miei live, faccio cover, faccio canzoni di altri, soprattutto straniere, però mi è capitato anche di fare delle cose italiane. E insieme a Michael Urbano, che era il batterista che ha suonato fino a pochi anni fa con Ligabue per 12 anni, quindi per un bel po', lui è di San Francisco e ha tutta un'idea di produzione un po' particolare. Insieme ci siamo detti, ma perché non ascoltiamo un po' di roba italiana da anni 80? E lui, non capendo le parole in italiano, quindi i testi, si lasciava un po' prendere dal sound. E lì sono nate le prime, diciamo, idee, l'Aurora, per dirti, un pezzo di Fossati e Oscar Prudente, che mi piace molto, poi Mona Lisa, appunto, come anche questa, che abbiamo cercato di rimettere un po', rivestire, dargli un vestito nuovo. E la mia selezione naturalmente è stata anche invece sui testi, perché alla fine volevo qualcosa che potessi cantare io in primis, però anche che fosse comunque attuale, che potessi dire queste cose anche oggi. E quindi ho fatto una scelta, anche se vuoi, legata alle parole. E sono andato sempre di più a ricercare, naturalmente, la parte finale, e diciamo tutta la parte di chiusura dell'album, quindi degli ultimi brani, è una gestione che ho fatto io, proprio portato avanti. Addirittura all'inizio erano 3 brani, poi sono diventati 5, poi ne ho fatti 11, poi ora sono addirittura 17. Naturalmente sono tutti sono anche degli interventi strumentali che ho deciso di dare anche un titolo, proprio perché erano il ponte che portava da una parte all'altra questo mondo. E l'ho fatto un po' così, per gioco, e un po' perché mi sono ritrovato, appunto, durante il lockdown ad avere tanto materiale e mi piaceva in questo momento fare qualcosa che fosse per me romantico, quindi come se fosse un lato A, un lato B, quindi che ci fosse la continuità di ascoltare tutti questi brani uno attaccato all'altro. Che poi appunto è così che nascono 17 brani. Noi abbiamo ascoltato prima anche Lockdown, insomma, dare un nome a un pezzo che appunto era uno dei 7 brani strumentali originali, con il periodo di fatto che stiamo vivendo e da cui poi è nato questo progetto. Esatto, infatti. Cioè, in realtà è nato un po' prima, diciamo che l'ottimizzazione di questo album è stata fatta proprio durante il lockdown. Il chiodo degli schianto è stata fatta in quel periodo, per dire, e quindi era un brano adatto. fatto per un disco così elettrico, così suonato, avevo bisogno di qualcosa che respirasse. Io sono un grande fan da sempre degli Scantos, sono nato proprio con gli Scantos, ma non ho mai provato a fare vari esperimenti, una canzone che potessi cantare e riarrangiare in maniera vicina agli originali, ecco. Quando mi sono trovato a rifare questo brano in una chiave completamente diversa, quindi stravolgendolo completamente, cambiando le tonalità, il suono della voce, l'armonia, in alcuni casi anche l'armonia, però mantenere questa cosa molto cruda, mi sono sentito credibile nel poter cantare per me un grande artista come Free Kent. Beh, tra l'altro effettivamente te stavi parlando, alla fine i brani sono dei vestiti, poi è bello in realtà, soprattutto quando le canzoni sono così belle e potenti, reinvestirle, insomma, ridargli un nuovo valore, però immagino che insomma ci sia dietro forse un lavoro ancora più grande che produrre proprio canzoni, appunto perché sono tante canzoni anche insomma dei mostri sacri della nostra musica italiana, quindi bisogna sempre maneggiarle con cura, però poi così è uscito appunto Canzoni Rubate, che devo dire effettivamente uno di quei dischi, come hai fatto te il tuo primo ascolto, però è proprio bello da ascoltare dal primo brano all'ultimo e forse anche immergersi un po' nella musica italiana degli ultimi anni, anzi decenni, direi. Beh, grazie per queste cose, vuol dire che l'hai ascoltato, ma sì, sono anche delle chicche in realtà, perché io non credo che tutte le persone conoscano Oscar Prudente o Enzo Carella oppure Fausto. Cioè, io ho cercato anche di andare a prendere delle canzoni per me che avevano un ricordo anche, però che fossero anche delle chicche. Io quando ho ascoltato Fausto, Vincent Price, che la canzone me la ricordo, sono andato poi a ascoltare tutta la sua discografia. E quindi mi piacerebbe che se qualcuno appunto si avvicinasse anche a quel tipo di informazione, proprio anche tramite appunto questo disco, di andare a scovare cose che magari in questo momento puoi anche trovare facilmente, perché appunto con l'uso di internet possiamo trovare delle cose che prima era molto più difficile, però andare a scovare delle cose particolari. Mi spero che di aver fatto anche quel lavoro lì, ecco, di dare a qualcuno un'informazione diversa. Esatto, soprattutto ai giovanissimi che magari sono in nostro ascolto e si stanno perdendo comunque grandissime chicche della musica italiana. Tra l'altro poi in questo disco è anche pieno comunque di collaborazione, abbiamo detto prima appunto Cimini, poi in realtà anche Gianni Morandi. Esatto, Gianni Morandi e Eugenio Finardi. Eugenio Finardi si è prestato sia a cantare questo brano insieme a me che a fare il video, quindi devo ringraziarlo apertamente, lo ringrazierò sempre, perché con un grande entusiasmo, senza troppe menate, diciamola alla bolognese, mi ha seguito, mi ha appoggiato in questo prodotto che effettivamente, come ti puoi immaginare, non ho uno scopo di lucro, perché io non guadagno una lira delle cover, quindi è proprio un lavoro che ho fatto, un grande omaggio per la musica. E la cosa che ti volevo dire, che il discorso l'ho fatto prima sulle canzoni, sono andato un po' a cercare, non è il caso di Varietà, che forse è la canzone più famosa, ma lì c'è una storia molto importante che mi piace ogni tanto dirla, perché è veramente una cosa che riguarda i giovani, nel senso che io avevo circa un po' più di 20 anni e stavo facendo una tournée promozionale per un brano che si chiama Bella Signora con Gianni Morandi, quindi è stata la prima mia vera occasione dove ho capito che si poteva guadagnare qualcosa con la musica. Io prima arrivavo dalle band come Tribal Noise e Radio City, che abbiamo fatto del gran lavoro ma senza retribuzione, quindi proprio per la passione, basta. E lì un bel pomeriggio venne a trovarci, prima di un programma televisivo, Mario Lavezzi, che è il compositore, e lui suonò davanti a noi questo brano che è Varietà. Io rimasi talmente colpito da questo brano, proprio dal ricordo di sentire una cosa così cruda e secondo me meravigliosa, che ho cercato di rifare. Quando un paio d'anni fa ho deciso di fare questo album, ho detto Varietà non può mancare. E quindi il mio lavoro su quel brano lì è stato maniacale. Io credo di aver fatto una decina di versioni diverse, proprio per arrivare a un'ottimizzazione, a un miglioramento, almeno per quanto mi riguarda, dove essere una cosa che io mi sentivo appagato, e credo che lo sia, perché comunque anche Gianni Morandi ha apprezzato la versione, addirittura mi ha chiesto di metterla all'interno di una compilation che gestisce lui, quindi gli è piaciuta molto, poi me l'ha scritto più volte, quindi sono felice di questo, e mi ha anche mandato la sua visione, quindi l'idea appunto di riportarlo alla DC Rock, Mario Lavezzi, che è il compositore. Beh, insomma, quindi si è chiuso un cerchio dal te ragazzino. Si è chiuso un cerchio, sì. Infatti. Sai che è la stessa cosa che ha detto mia mamma? Hai fatto la prima cosa con Gianni Morandi, quindi vuol dire che mi devo fermare, ho finito. No, assolutamente, la musica non si deve mai fermare, e infatti poi all'interno di questo disco c'è anche un inedito, che tra l'altro è un gioco di parole tra di lei e di lei, appunto scritto in inglese, quindi questo effetto musicale che crea queste continue ripetizioni, quindi è un nuovo brano. Esatto, sì, questo è un brano che appunto è stato, diciamo, spinto da Michael Urbano, appunto la prima idea, dove oltre a questi tre brani all'epoca di cover disse: ma anche questo brano che tu canti sempre in camerino mi piacerebbe riprodurlo, te lo posso, e me l'ha arrangiato praticamente lui, e devo dire che è l'unico brano che ho mollato, nel senso che ho detto: ok Michael, se hai in testa una cosa, lui diceva mi piaceva una cosa tra Neil Young e gli Eagles, capito? Una cosa così, effettivamente mi piace molto il sound di questo brano. Il gioco di parole appunto sul testo è un'idea mia insieme a Jacopo Estorre, che ha scritto con me il testo, che diciamo è uno degli autori più importanti che abbiamo in questo momento in Italia, è un ragazzo molto giovane, ma solo a Sanremo quest'anno ha portato due brani come autore, quindi, ed era il mio vicino di casa, quindi e lui sentiva le mie parti di chitarra, lui era molto più piccolo di me, lui era un ragazzino, però l'ho conosciuto fin da quando lui aveva 6-7 anni. E quindi anche questo si chiude un cerchio, quindi questo disco che sì, appunto è in un qualche modo chiude un cerchio, quindi insomma io ti ringrazio per averci raccontato tutte queste storie, perché poi il bello del nostro programma Fujiko Factory è proprio raccontare storie, e mi piace sempre molto quando poi sono gli artisti che raccontano le proprie storie, che appunto stanno dietro a questo bellissimo album Canzoni Rubate. E visto che insomma in questa mezz'oretta abbiamo ascoltato molti brani, però ci manca appunto l'inedito, quindi se vuoi lancialo tu, così ce lo andiamo ad ascoltare. Ok, per la prima volta, quindi la prima volta che lo ascolterate, quindi sono emozionato, ascolterò insieme a voi Di Lei, che fa parte di Canzoni Rubate, ed è l'unico brano cantato inedito, nel senso che sono degli altri inediti, ma sono strumentali, come ci siamo detti, ma questo è un brano cantato inedito dal nome Di Lei. E ce lo andiamo ad ascoltare, e io ti ringrazio per essere stato con noi su 103.1. Grazie a te, a presto. A presto, ciao. Giro blues.